Ero a piedi e stavo cercando di capire che cosa fare di me e di quella nottata. E probabilmente non c'era nient'altro da fare se non andarmene a letto il più velocemente possibile. Non sapevo più nemmeno che ore o che epoca fossero. Ho preso in mano il cellulare e c'erano 5 chiamate perse e un messaggio. Tutti a nome suo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, questa era di 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Qualche anno fa io ho comprato un libro che non so nemmeno perché ho comprato. Credo che mi piacesse il colore arancione della copertina e la massa del libro, le dimensioni e il titolo soprattutto, Gli Esordi. Come mi capita spesso per i libri che prendo quasi per sbaglio, l'ho lasciato lì su uno scaffale a maturare. Poi un giorno l'ho ripreso in mano e ho iniziato a leggerlo. È un libro difficile da trovare purtroppo, però se vi capita non mancate di comprarlo e ovviamente non mancate di leggerlo soprattutto. Io quando l'ho preso non sapevo niente dell'autore, non l'avevo mai visto in un'intervista e non avevo mai letto nemmeno un suo articolo o una cosa su di lui. Si chiama Antonio Moresco. La prima volta che ho saputo che era a Milano e presentava un libro, sono andato a sentirlo. Moresco è un signore alto e magro, ha i capelli e la barba grigia. È un signore che parla quasi sottovoce. Emette un po' serenità e un po' a disagio per quello che dice, ma soprattutto per come lo dice. Insomma, di quelle 2 ore lì, di quell'incontro, mi è rimasto in mente una cosa che apparentemente è piccola. Cioè, raccontando la sua vita professionale, raccontando delle difficoltà che ha avuto per diventare uno scrittore, a un certo punto Moresco ha detto che quando faceva un altro mestiere per campare e viveva con la famiglia in un piccolo appartamento, lui si alzava di notte e si chiudeva nel bagno a scrivere. E questa cosa qua, cioè il fatto di svegliarsi la mattina molto molto presto, oppure la notte molto molto tardi, per fare una cosa che non è la nostra vita, ma che magari è la vita che vorremmo fare, mi ha sempre fatto pensare che per fare quella cosa lì ci voglia una volontà enorme. Cioè che bisogna veramente forzarla la propria volontà, e bisogna forzare anche il proprio fisico per alzarsi ad un'ora in cui nulla si muove e tutti fanno l'unica cosa che è consentita fare se non fai niente: dormire. Non lo so perché, ovviamente, io penso che il motivo sia che io non sono in grado di farlo, però quando sento persone che alle 4 della mattina si svegliano per qualsiasi cosa che non sia necessaria, cioè per correre, per studiare, per andare in palestra, per scrivere, ma anche solo per fare la maglia o per cucinare, a me quelle sembrano sempre delle persone migliori di me. 800 24 00 24, 349 238 6666. Ci sono e ce ne sono di persone che, come tutti, lavorano tutto il giorno, magari si svegliano presto già per il loro lavoro, potrebbero svegliarsi però magari alle 7 del mattino e invece si svegliano 2 ore prima, alle 5, alle 4 e mezza, per fare una cosa che non è necessaria per la loro vita, ma evidentemente è necessaria per qualche aspetto della loro vita, cioè non è necessaria per il loro lavoro, però è necessaria per loro. 800 24 00 24, 349 238 6666. Ad esempio, prima su Facebook mi hanno scritto Claudia, dice: il mio amoroso si sveglia tutte le mattine alle 4 e mezza, dice che nel silenzio della mattina riesce a raccogliere le energie per affrontare al meglio la giornata. Lui li chiama i riti del mattino e vabbè, insomma, fa colazione, caffè bollente, stretching, sguardo le mail e allenamento in piscina. Paola: mi alzo alle 5:15, vado a correre e poi doccia in ufficio. Pascal: mi alzo per guardare i risultati delle partite della notte nell'NBA e magari vedere l'ultima mezz'ora in diretta. L'NBA è in inverno e l'MLB, credo che si dica, in estate. 349 238 6666, oppure 800 24 00 24. Credo che abbia a che fare col fatto di non mollare, no? Cioè il fatto che uno per campare deve fare un mestiere in un modo o nell'altro, e poi c'ha tutte le cose che gli capitano di fare nella sua vita di tutti i giorni: gestire la famiglia, fare la spesa, pulire la casa se non c'ha qualcuno che lo fa per lui, e poi soprattutto andare a lavorare. Quindi io oggi, con tutto il rispetto, non sono interessato a sentire persone che si alzano alle 3 del mattino per andare a lavorare. Non voglio sentire i panettieri, i pasticceri o i ferrovieri. Voglio sentire persone che si potrebbero alzare alle 8 o alle 7 della mattina e che invece si svegliano alle 4. E magari, che ne so, dipingono, oppure scrivono, oppure studiano per prendere un'altra laurea, oppure vanno in palestra. L'altro giorno un amico mi ha raccontato che la sua fidanzata, lei però soffre di insonnia, va in palestra alle 3 del mattino. Hanno aperto recentemente a Milano una catena di palestre che si chiama, credo, 24 ore. Vittoria dice di sì. Qualcosa in cui c'entra le 24. Per cui semplicemente sono aperti tutto il giorno, no? Giorno e notte. E la sua fidanzata dice che alle 3 del mattino in palestra c'è gente. 800 24 00 24, 349 238 6666, 24 hours, credo che sì, ho visto la parola inglese, subito mi sono risvegliato. Persone che si svegliano molto presto la mattina non per fare una roba di cui hanno bisogno per il proprio lavoro, ma di cui hanno bisogno per la propria vita. Roberta mi scrive: un mio collega dice che è quello che Harry De Luca considera l'ora prima, cioè dedicare la prima ora della giornata a se stesso. Manuela dice: spesso mi sveglio alle 5 per fare le decorazioni alle mie torte e poi vado al lavoro. Tutt'altro tipo di lavoro, appunto. Di nuovo, 800 24 00 24, 349 238 6666. Prima però di raccontarvi com'è nata la mia nottata e poi la mia mattina, io vorrei concludere il discorso che avevo fatto ieri riguardo a quello che non si fa quando si esce la prima volta. Avevo letto un lungo elenco di regole per il primo appuntamento. C'è stato che chiaramente erano state stilate da una donna, evidentemente. C'è stato un conciliabolo di menti maschili in radio ieri e ne è uscita una controlista. Vi leggo velocemente le regole per il primo appuntamento. Allora, la donna diceva: non si dà mai buca ad una donna, soprattutto una cosa deve essere chiara, lei è la cosa più importante. Controregola: si può dare buca al primo appuntamento perché così lei capisce che non sei uno zerbino subito e questa cosa la farà pensare. Regola numero 2: l'uomo va a prendere la donna a casa e va a prenderla sotto casa. Controregola: l'uomo va a prenderla a casa, ovviamente, così se la serata va bene sei già a buon punto. Regola numero 3 e numero 4 vanno bene come erano, e cioè arrivate a casa, si parcheggia e si chiama. Oppure la 4: l'uomo deve avere già in mente un posto dove vuoi portarla. La regola numero 5 era: qualsiasi cosa si faccia è l'uomo che deve offrire. La controregola è: ok, ma non ci faccia l'abitudine. Regola numero 6: non si parla mai dell'ex a tavola. La regola numero 6, la controregola, va bene. E poi la 7: non si guardano le altre donne che passano. La controregola è: le donne si guardano, sì, non sei mica Ray Charles. La 8 era: finita la serata si manda un sms per ringraziarla. Mai sottolineato sms dopo la serata, brutto segno. E poi c'è un'ultima regola che la redazione maschile qui a Radio 24 ha stilato, è una nona regola che non c'è, non è una controregola, ed è farsi chiamare da un amico ad un certo punto della serata, perché così ci si crea una via di fuga. Questa la devo ancora capire esattamente. Credo che la cosa sia: tu dici a un tuo amico, chiamami verso le 10:30, così se va tutto bene ti butto giù, altrimenti ho una scusa per uscire, per andarmene da lì. 800 24 00 24, solo se si svegliate molto presto la mattina per fare una cosa a cui tenete particolarmente. Io l'altra notte non mi sono svegliato, sono semplicemente stato sveglio tutta la notte. Insomma, la serata cozze non si è chiusa davanti al cozzificio, ma al pronto soccorso. Ci sono andato da solo perché Natalia era sparita e non capivo se se n'era tornata a casa oppure se vedermi gli aveva fatto talmente schifo che era venuta la nausea pure a lei. E sinceramente io quando sto male preferisco starmene da solo. È da sempre che è così. Se devo scegliere tra la compagnia e la solitudine, quando sono ridotto a uno straccio, io preferisco sempre gestirmele da me, le mie porcherie. Quindi ho preso e da solo sono andato al pronto soccorso. Arrivo all'ospedale San Giuseppe di Milano. È la prima volta che ci vengo, ma è uguale a tutti i pronto soccorsi del mondo. Pareti verdine, panchine di sedile da 5 posti e infermieri che non danno retta a nessuno, presi da chissà quale urgenza che è sempre più urgente della tua. All'accettazione mi fanno aspettare i soliti 20 minuti facendo altro dietro al vetro. E poi, come niente fosse, la signora mi guarda come se fossi appena arrivato e mi chiede come può aiutarmi. Compila un modulo, mi fa accomodare. All'interno mi ritrovo in un corridoio stretto, lungo. Ci sono 4 porte che danno in altrettanti ambulatori. Non si capisce chi mi chiamerà e tantomeno quando mi chiamerà. Quindi aspetto. Dopo 10 minuti o forse 10 anni di silenzio in cui non accade nulla, si sente la sirena di un'ambulanza che entra nel cortile. E poi nel corridoio spunta un gruppo di persone intorno ad una barella che viene verso di me. Sopra la barella c'è un signor anziano che si lamenta per il dolore alla gamba. Dietro la moglie parla con il medico. La barella scompare dietro la porta di un ambulatorio. La signora si lascia sfilare e si siede vicino a me. Io comincio ad avere qualche senso di colpa, cioè ho la sensazione in fondo di non stare poi così male. Forse è meglio andarsene. Poi però la porta di fronte a me si apre, appare un medico giovane che dice di accomodarmi. Mi fa sdraiare su un lettino e mi chiede che cosa mi è successo. Gli racconto delle cozze e del vomito tra le macchine. Lui da buon medico non fa una piega, non dice niente, non un'espressione, non un verso, non un sorriso. Prende una siringa e mi fa un prelievo. Poi senza guardarmi mi dice che posso accomodarmi. Io non capisco dove, lui indica la porta. Deduco che me ne devo uscire e tanto per cambiare, aspettare. La situazione nel corridoio intanto si è animata. Di fronte a me c'è una coppia sulla sessantina. Sono napoletani, lo si capisce da come parlano. Sembrano scocciati, anche se in realtà non lo sono. Non ho capito chi dei due stia male, perché lei zoppica, ma lui si lamenta e litigano in continuazione. Nel frattempo il signor anziano con il dolore alla gamba che è arrivato in barella ed è in uno degli ambulatori pare avere qualche complicazione. È uscito un medico a dire qualcosa alla moglie e lei ha un'espressione attenta e preoccupata. Ora insieme alla moglie sono arrivate la figlia e la figlia della figlia, cioè la nipote. Stanno parlando tra di loro in attesa che qualcuno porti delle notizie da dietro quella porta. Cercano di non darla vedere, ma si capisce che sono in grande ansia. Passano altri 20 anni in cui nessuno dice niente. E poi una delle porte si apre. Tutti guardano in quella direzione per capire se tocca a loro o se ci sono novità per loro. Ne esce un medico in camice verde. Avrà 60 anni, ma ne dimostra di più. È alto, ha le spalle curve come se sopportasse un peso più grande di lui. Guarda verso il corridoio e chiede: «I parenti del signor Germinato?» La signora anziana di fianco a me scatta in piedi prima della figlia e della nipote. «Sono io», dice. Gli va incontro. È dall'altra parte del corridoio. Parlano per pochi secondi, il medico con il peso sulle spalle non cambia mai espressione, scuote appena la testa e poi allarga le braccia, come a scusarsi. La signora si gira, torna verso di me, ma non viene da me, va dalla figlia e dalla nipote. Ha lo sguardo fisso su un punto in fondo al corridoio, come se stesse pensando a qualcosa, come se stesse capendo qualcosa. Ancora manca qualche metro prima di raggiungere la figlia e incrocia la signora napoletana, quella che zoppica, che sta facendo avanti e indietro da quando è arrivato. Non capisco perché, forse perché è nervosa, forse perché vuole avere ancora più male di quanto già non ne abbia. Insomma, quando le è a fianco, la tizia napoletana, in modo quasi confidenziale, le chiede: «Signora, e allora? Suo marito sta meglio?» E lei, quasi a scusarsi, le risponde: «No, signora, è morto». Crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. Sì, quella è stata decisamente una gran serata. Da quando la signora ha ricevuto la notizia della morte del marito, nel corridoio è successo di tutto. Parenti che piangevano, altri che piangevano anche se non erano parenti. Il medico con il peso del mondo sulle spalle è uscito a fumarsi 10 sigarette di fila, confermando la teoria secondo cui senza il fumo i medici non reggerebbero mai il lavoro che fanno. Poi quando il corridoio si è svuotato e io ormai stavo bene, il medico giovane mi ha chiamato, tenendo in mano un foglio con dei nomi sconosciuti e dei numeri. E mi ha detto che niente, che era stata una congestione, di mangiare in bianco per un paio di giorni e riposarmi. Ah, e visto che non era nulla di grave, mi toccava pagare 45 euro di ticket. Ho pagato col bancomat e sono uscito. Ero a piedi, stavo cercando di capire che cosa fare di me e della mia nottata, anche se probabilmente non c'era nient'altro da fare se non andarsene a letto il più velocemente possibile. Non sapevo nemmeno più che ore o che epoca fossero. Ho preso in mano il cellulare, c'erano 5 chiamate perse e un messaggio, tutti a nome Natalie. «Ma dove sei finito? Chiamami appena puoi». Erano 2:30 e ho pensato che forse era meglio lasciar perdere. Io non è che creda nel destino, però ho pensato che forse quella non era la serata giusta, che forse lei non era la persona giusta, visto che era fidanzata, che l'avevo conosciuta in maniera rocambolesca e la prima uscita aveva vomitato tutto il vomitabile. Mentre pensavo che tipo di messaggio scriverle e se scriverle qualcosa, mi sono messo a cancellare le chiamate perse. E mentre lo facevo, è suonato il telefono. E quasi non me ne sono accorto, perché ho schiacciato il tasto verde per dare l'ok alla cancellazione. Solo che in quel momento il verde era verde per rispondere alla chiamata. E quindi da un momento all'altro ho sentito la sua voce che usciva dal telefono e diceva: «Pronto? Pronto, Matteo? Pronto?» E allora sì. «Pronto?» I'm me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. E allora mi ha spiegato tutto. Mentre vomitavo, era rientrata nel locale per chiedere dell'acqua e dello Scottex. Mentre lei era dentro, io mi sono ripreso, non l'ho trovata e me ne sono andato. Lei è uscita, mi ha cercato, ma ero sparito. Mi ha chiamato e non ho risposto. È tornata a casa ma non era tranquilla, allora ha provato a rintracciarmi. Ha preso la macchina ed è andata a casa mia, che si ricordava perché mi ci aveva accompagnato. Ha suonato ai vicini, che essendo notte l'hanno mandata a cagare e un po' ci manderanno pure me quando ci tornerò domani. Ha pensato di andare in qualche pronto soccorso, però le pareva esagerato, visto che non aveva avuto una sincope, ma una congestione. È tornata a casa. Nel frattempo l'aveva chiamata il suo fidanzato, Italo. Che ti pare che stai con uno che si chiama Italo? Ma che nome è? Se ti chiami Bocchino di cognome può avere un senso, altrimenti è meglio che ti inventi in fretta un bel soprannome. Comunque, a Italo ha detto che non si sentiva bene. Intanto ha provato a richiamarmi, mi ha scritto un messaggio, mi ha richiamato e io ho risposto. Io le ho raccontato tutto del signore morto, di sua moglie che ringraziava il medico e del medico che mi ha praticamente cacciato fuori. Lei mi ha detto di aspettarla lì, che veniva a prendermi. È arrivata dopo 5 minuti, mi ha caricato in auto e mi ha portato a casa sua. Ne sono uscito all'alba. Potevo prendere un taxi o un tram, però ho preferito fare 3 passi per schiarirmi un po' le idee. Era già chiaro e l'aria era quasi respirabile a Milano. Io ho tirato fuori il mio registratore e ho fermato quel momento. Sono le 5:25 del mattino di un giorno di fine novembre. Sto camminando attraversando Parco Ravizza, che è un parco nella zona sud di Milano. C'è già gente che fa cose a quest'ora della mattina. No, non parlo delle persone che lavorano, quello è un altro discorso. Parlo delle persone che si svegliano alle 5, direi, perché alle 5:30 ci sono già in giro persone che corrono. C'erano due signori che facevano, credo, tai chi nel parco. Non mi sono fermato a guardarli perché mi imbarazzava. Ogni volta che mi capita, per motivi più diversi, di svegliarmi presto la mattina, molto molto presto la mattina o molto tardi la notte, tipo alle 4, alle 5, io sono stupefatto da quante persone ci siano che fanno delle cose la notte o la mattina molto presto. Credo che ci voglia un'enorme forza di volontà per alzarsi la mattina e fare quello che non puoi fare durante il giorno, perché c'è il tuo lavoro, perché c'hai i tuoi impegni, perché c'hai una famiglia. È davvero il sogno di un'altra vita. C'è la possibilità di fare un'altra cosa ed è alzandosi la mattina alle 4 o la notte alle 3. È l'altra vita possibile. Alle 6 mi alzo, studio francese o inglese o svedese. Ciao Raffaele. Mi alzo alle 5 per poter leggere 2 ore di fila. Ciao Luisa. Mi alzo alle 5 per caricare la caldaia a legna, fare la colazione, leggere i giornali del giorno prima e poi svegliare i bambini al calduccio. Michele. Ce n'è un altro che spaccava la legna. Dov'è? Eccolo qua, d'inverno la mattina alle 5, almeno 2 giorni a settimana, spacco la legna per la stufa e poi al lavoro, sono un ingegnere. Maurizio, ma così cos'erano le caldaie a legna, quindi evidentemente, o le stufe a legna? Mi sveglio alle 5 per fare l'amore, Beppe, è veramente l'altra vita possibile questa. Io ho sempre sognato e sogno tuttora di fare il DJ, spesso di notte mi chiudo in studio e metto i dischi per un paio d'ore. Paolino, questa è roba tua. Alle 4 ci si sveglia per dipingere i treni. In che senso dipingere? Ah, giusto, hai ragione tu, è un writer, ecco perché. Io credevo dipingesse i treni sulla tela. Ciao, la Paguis, sì, perché questo è un nome, o la Paguis, è una tag probabilmente. Poi ce n'è una bella sulla svegliarsi presto, che non c'entra col fare un'altra attività però. Io ingrassavo per il metabolismo lento. Ho iniziato per curiosità ad alzarmi alle 5 per portare il mio cane a giocare nel parco percorrendo le strade deserte. Ora mi alzo senza sveglia, sono dimagrito senza sacrifici e mi sembra di aver cambiato vita. Daniele da Brescia. E poi l'ultima è: vado nel bosco alle 3 del mattino per vedere le volpi. Ferruccio da Cortina d'Ampezzo. 800240024. Quando vi svegliate la mattina è perché volete avere un'altra vita. La borsa e dopo io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo in una biblioteca, direi. Sembra un magazzino di libri, ma è più una biblioteca. ci sono due piani, o meglio, c'è un piano sotto e un soppalco. Del soppalco si vede pochissimo, si vedono giusto alcune basi dei libri, e invece della parte sotto, che probabilmente è uno scantinato, forse semplicemente il primo piano, c'è un tizio di spalle, pelato, quindi avrà, non so, una trentina d'anni, a parte che c'è qualcuno magari che diventa pelato un po' prima, e di spalle ha una maglietta nera e sta, credo, non si vede bene purtroppo dalla foto, sta pinzando dei libri probabilmente, e di fronte a sé ci sono lunghe file di archivi, libri, carte e documenti, ma in primo piano, quindi essendo un foglio di carta bianchissimo, spicca rispetto a tutto il resto, c'è appeso proprio al soppalco, c'è questo cartello con la scritta "Moriremo solo di vecchiaia". Gianni Agostinelli, 32 anni. Ero qui fino al 12 agosto, nel magazzino della libreria dove ho lavorato per 3 anni. Sono ancora lì, aspettando di aprire la nuova libreria tra poche settimane. Io sono qui. Gianni è qui e anche voi siete qui, se state ascoltando. Se invece volete mandare una foto a Io sono qui per raccontarci dove siete o dove vorreste essere, potete mandarla a due indirizzi. Il primo è il più semplice, è un indirizzo mail, è iosonoqui@radio24.it. L'altro invece è al profilo Facebook, che è Matteo Caccia Io sono qui. Mi caricate la foto, mi dite chi siete, mi dite che cos'è quella foto, perché effettivamente io non me ne ero accorto, ma Gianni aveva scritto che era il magazzino della libreria, quindi non era una biblioteca. 80024 0024. Ecco, a proposito del 349-238-6666, io vorrei comunicare a chi deve comunicare con Sabrina che ha fatto il numero sbagliato, perché c'è arrivato un SMS che dice: "Ciao Sabina, ho il tuo materiale in magazzino, se mi chiami ci mettiamo d'accordo per consegne e pagamenti". Qui non c'è nessuna Sabina, per cui probabilmente però non sta ascoltando, quindi se però magari Sabina sta ascoltando e ha lì, sta aspettando il materiale per il magazzino, chiami il suo amico e gli dica che vada a prenderlo. Invece l'SMS dell'ascoltatore che si sveglia alle 5 del mattino per fare l'amore, ovviamente strano, no? Strano a dirsi che quando si parla di sesso subito si aizzano gli animi, ma si sveglia da solo per fare l'amore, Andrea, e l'altro: "Beppe si sveglia alle 5 per fare l'amore, sua moglie apre gli occhi verso le 7 e va bene. Abbiamo stabilito che abbiamo gli ascoltatori più divertenti della radio italiana, e adesso andiamo direttamente da Silvia per sapere a che ora si alza e cosa fa quando si alza la mattina. Pronto Silvia? Sì, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Ciao, benissimo, grazie. Senti, sì, io da sempre mi sveglio verso le 5, 5 e mezza. Quando mi sveglio tardi, mi sveglio alle 6, perché secondo me non devi perdere la giornata. E allora faccio impazzire la mia famiglia, perché per andare a sciare mi alzo alle 6. Ma tu che cosa fai oltre a quello? Cioè, anche durante la settimana sempre ti svegli alle 5 e mezza? Sì, sempre 5 e mezza, sempre, perché non voglio sentire il rumore a casa, voglio ascoltare le notizie. Potrei alzarmi alle 7, 7 e mezza. Che, sei mamma tu, hai una famiglia? Sì, ho 3 figli. Ti odiano tutti? Abbastanza. Beh, Silvia, grazie mille, ciao, buona grazie, giornata, ciao, alla prossima. Io non mi sveglio alle 4, ma torno a letto alle 4, quando sono andato a fare i cerchi nel grano. E poi la mattina ti svegli con la curiosità di vedere come sono venuti Simone, o semplicemente con la curiosità di vedere quanti pensano che siano gli UFO. Andiamo da Massimo, che mi ha dato un SMS: "Mi sveglio alle 5 per fare qualche buon collegamento radioamatoriale". Pronto Massimo? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, come stai? Io bene, grazie. Spero, sento anche tu dalla voce. Mi dici che lavoro fai nella tua vita, Massimo? Dunque, io lavoro per una grande azienda di trasporto del gas nazionale. Ma cosa fai? Lavoro amministrativo? No, lavoro tecnico il mio. Ah, ok. E poi la mattina ti alzi invece per parlare al CB, è quello? No, non è il CB, non è il CB. Proprio radioamatore, quelli con le sigle del ministero, insomma cose un pochino più grandi, diciamo. Ma io quindi mi alzo la mattina. Sono quelli che hanno le antennone sul tetto? Sì, esattamente. E tu hai appuntamento con qualcuno alle 5 oppure? Diciamo che tante volte si trovano anche amici al di là dell'oceano, nelle Americhe, eccetera, per cui per loro è sera, mm-hmm, e quindi tante volte trovi le stesse persone e riesci anche a stabilire un contatto, diciamo, non quotidiano, ma magari settimanale, riesci anche a coltivare delle amicizie. Ma ad esempio stamattina con chi hai parlato, Massimo? Dunque, stamattina io ho parlato con le Bahamas, Una stazione della Florida e una stazione di Boston. Va bene, ma cosa gli hai detto però? Niente, niente. Quella di Boston è una stazione che si sente, che sento spesso. Ci siamo scambiati via due o tre impressioni di com'era la giornata, di com'era la settimana. Gli altri sono collegamenti un po' più veloci, un po' più fugaci. Ok, nel senso che ok. Stabilisci il collegamento, dici quali sono le tue attrezzature, quali sono le sue, eccetera, eccetera. Cioè, è più importante il mezzo che il messaggio, direi. Il fatto che sei lì piuttosto che quello che dici. Sì, assolutamente. Grazie assolutamente. Mille Massimo, buona giornata. Figurati, ciao, ciao, alla prossima. Io non mi svegliavo presto, non andavo direttamente a dormire per studiare ebraico e cultura ebraica e poi il sabato andare a Milano per diventare ebrea. Ma ora sono a pezzi e non lo farò mai più. Andiamo invece da Nicola, che prima ci ha mandato un messaggio e che fa un mestiere che, detto così, sembra uscito da un romanzo. Fa il custode di un castello. Pronto, Nicola? Ehi, ciao. Ciao, buongiorno. Senti, ciao, tu... sono un tuo ammiratore. È fantastico, un po' anch'io per il lavoro che fai. Mi ricordo del tuo programma precedente e di questo qua, molto belli i tuoi racconti, bravo. Benissimo, Nicola, dimmi di te invece, scusa, parliamo di te che mi sembra più interessante. Tu sei il custode... In questo momento sono fermo sulla tangenziale di Milano e sto mirando il tramonto. Ma scusami, bello. Tu sei custode di un castello? Sì, il castello di Pandino, a Pandino, sai che c'è un castello tipo quello di Milano, un po' più piccolo? No, purtroppo no. Dov'è Pandino, molto Nicola? Molto bello, molto bello. Piccolo, piccolo. Dov'è Pandino, Nicola? Però è molto Nicola, bello. Nicola, dov'è Pandino? Pandino, dunque, tu esci da Milano sulla Paulese, qui dalla tangenziale, prendi la Paulese e vai verso Crema. Prima di Crema c'è Pandino. Senti, ma quindi tu capita che fai delle notti da solo nel castello? Io stanotte ho fatto la notte, stamattina mi sono svegliato, sono andato a casa a dormire un po', poi mi sono svegliato e adesso sono in questo bellissimo posto, la tangenziale, sono fermo e vicino a un cancello di servizio. Sai, Nicola, sì, ho presente. Mi dici come si fa a diventare custode di un castello? Allora, come si fa è stato un caso, perché quando sono tornato da uno dei miei lunghi viaggi mi sono iscritto semplicemente al collocamento e un bel giorno mi hanno chiamato per fare il custode del castello. Sì, abbiamo bisogno di, anziché non so, fare il custode di una palestra o di una cosa così, di un castello. Sì, è capitato. Insomma, il collocamento così funziona ancora, direi. Nicola, grazie mille. Sì, funziona benissimo. Ciao, buona giornata. Grazie, ciao, Nicola. Bello, ciao, ciao. Andiamo da Mattia di Firenze. Pronto, Mattia? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Senti, tu fai già un lavoro interessante e in più ne hai abbinato un altro lavoro che fai di notte, giusto? Ma tu non sei un goloso. Io faccio il cuoco e pasticcio principalmente con lo zucchero. Cioè, cosa vuol dire che pasticcio? Nel senso, fai dolci? Sì, nel senso che sai, i cuochi sono sempre un po' reticenti nei confronti della pasticceria. Io invece sono un cuoco che si è poi trasformato in pasticcere. Perché i cuochi sono reticenti nei confronti della pasticceria? Cioè la considerano un sottoprodotto della cucina? Diciamo così, non ti voglio rubare troppo tempo, ma la pasticceria è tutto termometro e misurazioni precise e perfette. Invece la cucina è molto più improvvisazione, molto più sentimento romantico. Ma Mattia, dove sei che si sente un rumore di fondo? Sono in macchina. Ah, sei in macchina. Senti, invece veniamo all'attività che tu fai svegliandoti la mattina prestissimo. Allora, diciamo, è precedente del mio lavoro, quindi quando ero ragazzo e studiavo, io adoravo e tuttora adoro il teatro. Sì. Quindi mi piace recitare. Poi però la mia professione mi ha portato via dai laboratori teatrali, perché ovviamente perché fai altro. Subito dopo cena io sto lavorando. Chiaro, chiaro. Per cui niente, ho sempre rincorso il teatro fino a che mi è stato chiesto di fare una cena. Io adesso non ne posso più di fare cene a tema particolare, ho detto ma posso fare una cena recitata? E loro mi hanno detto ma in che senso? E quindi scusa Mattia, perché devo salutarti, quindi tu cosa hai fatto? Scrivi di teatro la mattina presto? È la notte. La notte. Quindi mi sono ritrovato a scrivere per un mese fino alle 6 la mattina. Bravo Mattia, grazie mille, buona giornata. Grazie a te, buona serata. Ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo da Ahmed, dalla provincia di Milano. Pronto Ahmed? Pronto. Ciao, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, benissimo. Senti, tu da dove vieni innanzitutto Ahmed? Io sono originario del Marocco. Sei marocchino? Sono qua di Melfi, provincia di Milano. Da quant'è che sei qua? Da quant'è che sei qua, Ahmed? Sono 20 anni che sono qua a Milano. E quanti anni hai? 44. Senti, dimmi che lavoro fai e poi che cosa fai la mattina quando ti svegli. Io faccio l'autista di mestiere, sono sul bilico, adesso vedo entrare una ditta a caricare. Ok, il bilico per chi non lo sapesse, lo dico per chi non lo sapesse, è quel camion lunghi, è un lato articolato lunghissimo. Sì, quanti metri sono? 20? No, il cassone è 13,60, okay. Il trattore. Benissimo, ok. E poi invece la mattina all'alba cosa fai? L'alba mi sveglio dopo 4 ore di sonno, perché vado a mezzanotte a letto, perché sì, faccio altri oltre il mio lavoro, che sono vicepresidente di un'associazione che opera sul settore culturale. E più la mattina mi svegliare, perché mi sto rilaureando un'altra volta, perché sono laureato in giurisprudenza. Sto laureando in scienze umane adesso. Tu ti sei laureato in giurisprudenza in Italia o in Marocco? A Marocco, Marocco. E adesso si sta laureando in? Scienze umane, presso la facoltà di Château-Chinon in Francia, però. Quanto ti manca la laurea? No, ho fatto il primo anno, sono stato promosso, mi mancano ancora 2 anni. Ahmed, grazie mille, in bocca al lupo. Anche, grazie, anche tanto. Ciao, alla prossima, grazie mille. Tutti a letto e io a scrivere, pausa pranzo a scrivere, ogni momento libero a scrivere. Il mio libro si chiama L'albero del pane. Grazie a lui, grazie a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni e Vittoria Mussini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui e voi dove siete?